Rem. Esto en este programa. On the road. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Sono afono, dovrò chiedere aiuto al volume qua del microfono perché sono veramente senza voce. Mamma mia. Che ridi. Dai che iniziamo con quello che mi rimane. Vabbè, capita, d'altronde. Il periodo è quello che è. A proposito di buon carnevale, si dice buon carnevale, che è una festa. Oh, non lo so se si dice. Oggi siamo al secondo giorno, è il lunedì, è il 20 di febbraio, insieme al sottoscritto sino alle 19. Mettetevi comodi, quindi due orette insieme, lo sapete che iniziamo sempre con un flashback e ve lo regalo subito, un disco bellissimo. Flashback. Try. iniziare così, sai, il lunedì è sempre un giorno dove devi riprenderti da un fine settimana. Io sono un po' un diesel e quindi ho bisogno prima di riscaldare un attimino i motori prima di partire. Ben ritrovati, buon inizio di settimana, avete trascorso un buon weekend? Io molto molto intenso, davvero, sono divertito tanto lavorando, perché poi è il mio mestiere che mi porta a divertirmi mentre lavoro. Ho fatto le ore piccole, non solo. E poi, vabbè, oggi grazie a Dio una giornata di relax per poi concentrarci nell'ultima giornata di carnevale. Domani 17:11, ufficialmente è partito il primo appuntamento settimanale di On The Road con Roby D'Antoni, quindi sino alle 19, adesso un attimo di pausa, poi torniamo. Sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Oggi abbiamo rivinto, ieri sabato, per meglio dire, o meglio in questo weekend, la Juve torna a vincere, l'ha fatto contro il Catania 3-1, anche se poi era passata in svantaggio. Ma ne parleremo poi con il mio inviato speciale, il mio supporter Rambo, lui che curerà la parte sportiva del mio appuntamento, lo sapete ormai, o quantomeno chi segue il mio programma sa che durante le ore di On The Road c'è sempre la parentesi Rambo, il mio opinionista, colui che ci azzecca, guarda, al 90% lui azzecca sempre il risultato, è una cosa incredibile, non so come faccia, secondo me è un collegamento diretto con le squadre di calcio, ci ha azzeccato quasi quasi sempre, una cosa incredibile. 17:20 sino alle 19 insieme. Adesso vi regalo il nuovo di Martin Solveig assieme a Dragonette, questo è Big in Japan. Oggi 20 febbraio ufficialmente parte il secondo corso di formazione radiofonica, ci sono i nostri aspiranti disc jockey, animatori, chi più ne ha più ne mette, che cosa diventeranno poi alla fine, Filippo? Ma in realtà ancora non si è capito, stiamo cercando di capirlo un po' tutti quanti, potenzialmente potrebbero diventare dei DJ o degli speaker, ma anche dei giornalisti. Ah, perfetto, perché il nostro corso che cosa prevede? Allora, è un corso che fornisce insomma le basi chiaramente per poter poi intraprendere questa professione, che è una professione che molte persone non conoscono in realtà molto bene, perché comunque la radio non è un lavoro comune, è un settore abbastanza ristretto di persone, quindi CRM dà l'opportunità ai giovani, ma non solo ai giovani, comunque a chiunque con il desiderio di intraprendere questo lavoro, che può anche essere poi un hobby, di entrare a far parte di questo mondo fantastico che noi viviamo. Una volta era solo si sentiva soltanto, ma oggi col fatto che la radio si veda pure è importante, infatti credo che tu abbia selezionato anche in base alla presenza dei tanti, nostri ragazzi. tanti fattori, tanti elementi importanti. Abbiamo scelto una rosa di 6 partecipanti per questo secondo corso di formazione, tutti tanti ragazzi fortemente motivati, capaci, con le basi chiaramente per poter affrontare questo percorso formativo, e li vedete insomma in telecamera in questo momento sul nostro sito CRMP. Io volevo far parlare anche loro, visto, no? Infatti, visto che oggi parte ufficialmente il corso, visto che i ragazzi sono qua, perché oggi la prima lezione diciamo è di presentazione della radio, infatti oggi si è parlato con il nostro editore della storia della radio, quindi per farli entrare in questa nuova dimensione che è la radio. E allora, li conosciamo? Allora, c'è Giuseppe, vieni qua, avvicinati, eccolo. Ciao a tutti. Senti, ciao, che bella voce. Ciao Giuseppe da dove arriva? Io di Sciara. Da Sciara, perfetto. Poi la tua passione per la musica che ti ha portato a fare ciò o così? La mia passione per la musica, ma anche, non so, mi dicono di avere una bella voce, eccetera, poi eccetera. Io lo sai che lo vedrei come redattore? Non lo so. Se chiudo gli occhi adesso provo a immaginare le collegamento notizie con la redazione giornalistica di Sciara. Sì, così, speriamo. Sai, quando hai quel l'intuito mi dice questo. Va bene. Staremo a vedere. Grazie Giuseppe. Poi Salvatore. Ciao Salvo. Buon pomeriggio a tutti. Mamma mia, Salvo. Vocione. Tu invece da dove arrivi? Io arrivo da Gratteri. Gratteri, e quanti anni hai? Sei giovanissimo. 19 anni. Infatti, sei giovanissimo. Anche tu passione per la musica, per la radio. Sì, per la radio, per la musica in generale. Quotidianamente ascolti la radio. Sì, no? Sì. Quindi anche questa è questa curiosità di capire un po' come funziona la radio. Perfetto. Tra l'altro Salvatore è anche un cantante, devi sapere. Vero. Beh, quindi tu ti troverai bene in radio, perché già avrai confidenza quindi con il microfono, credo, no? Sì, con il microfono sì. Hai già fatto delle serate in pubblico? Sì, tre serate con pubblico davanti al paese da me, a Gratteri. Bellissimo, belli. Dove? In anfiteatro? Alla piazza. In piazza. Anfiteatro è un po'... No, quello che c'è, il belvedere che c'è su. Una belvedere e una in piazza, sì. Perfetto, è bellissimo. Io consiglierei a tutti di andarlo a vedere almeno una volta, di andare a Gratteri a vedere questo bellissimo anfiteatro. Tra l'altro noi ci siamo stati qualche annetto fa, abbiamo fatto la diretta, che era Miss Italia, vero? Sì. Sì. Noi eravamo radio ufficiale della manifestazione. C'era Rocco del Grande Fratello, credo, si presentava. Bene, grazie Salvatore, giovanissimo. Una donna, Patrizia. Patrizia. Ciao Robby. Ciao Patri, come va? Apposta. Patrizia la conosco, Patrizia arriva da Cefalù, quindi la conosco. Sì, tutto bene? Sì, tutto a posto. Sei pimpante, normalmente c'è sempre l'emozione di andare in diretta, però no, lei è pimpantissima. Bene, meglio così, Patrizia. Infatti. Anche tu vogliosa di iniziare questo corso? Ma... Sì, interessata, curiosa, vediamo come va. Beh, credo che la stoffa ci sia, sai, così, a intuito. Io spero, ma poi, allora, vi dico già una cosa, che se voi già siete là ad iniziare il corso, vuol dire che i nostri selezionatori, il nostro direttore Filippo assieme a Simone, avranno visto qualche cosa. Grazie, Patti. A una donna non si chiede l'età, quindi va bene così. Un'altra giovanissima, Ilenia. Ciao, Ile. Ciao a tutti. Come va? Bene, sono Ilenia, la più piccola come al solito. Allora, io siccome la conosco, posso anticipare che Ilenia, oltre ad avere questa splendida, belle presenze, eccetera, eccetera, Ilenia è anche una brava ballerina. Così si dice. Bene, così quest'estate organizziamo delle belle equipe di CRM in spiaggia. Perfetto, faremo delle belle coreografie. Sì, infatti di solito abbiamo sempre il Robby con noi per i saggi, quindi ecco, ampliamo lo staff. Bene, Irene, mi fa piacere che anche tu hai intrapreso questa strada. Poi andiamo avanti. Poi un altro, presentati tu da solo, dai, fallo tu. Buonasera a tutti, sono Andrea. Andrea, da dove? Da Cefalù? No, da Campo Felice. Da Campo Felice, bravo Andrea. Quanti anni hai? Giovanissimo. Giovanissimo anche tu, bellissimo. Vabbè, no, ma sai, la radio è anche passione, soprattutto passione, voglia di confrontarsi, voglia di mettersi in mostra. Condividere e soprattutto la tua passione per la musica. Che genere musicale piace a te? A me piace alternativo, un po' di rock, rock alternativo. Sa perché ci avrei giurato? No, ma perché Campo Felice, devi sapere, so se Filippo, fra l'altro, avendo questo tuo programma Rock Revolution, dovresti saperlo che Campo Felice c'è una nutrita. Sì, Campo Felice con le Sarre. Sono molto rocchettati. Castelbuono. Perfetto, grazie Andrea, grazie. Ciao. E poi abbiamo un altro personaggio. Giovanissimo anche lui. Ciao, Lucis in fondo. Mi sono infiltrato fra i giovani. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, lui giovanissimo. No, non è giovanissimo, non si può dire. Però lui farà, credo, della sua esperienza, del suo bagaglio musicale, una forza, no Ivo? Assolutamente. Ma spero di sì, diciamo, sarà conosci sicuro i miei gusti, per cui puoi dirlo. Guarda, io così a memoria, aspetta, vediamo se riesco un attimino, volevo regalarti una canzone per far sentire soprattutto qual è il tuo gusto musicale. Forse lo trovo. No, non lo trovo io. Poi non ti preoccupare, tipo Gilberto Gil non solo Brasile, comunque ora, jazz, ora infatti, cubano, tu reggae, dub. Inizi forse perché sei stato in Brasile. Anche, vabbè, ma ti piaceva soprattutto prima, ti piaceva più la musica brasiliana? No, mi piace sempre. Poi mi piacciono tante musiche. Poi Filippo, devi sapere che Ivo mi ha fatto conoscere un artista, ma parliamo di tanti anni fa, tale Pat Metheny. Ah, grandissimo. No, ma io tu non l'hai creato tu. me l'hai fatto conoscere, perché io non conoscevo il personaggio. Una volta mi ha fatto ascoltare un po' di musica da quel giorno. Comunque c'è sempre da scoprire, non lo dimentichiamo. Assolutamente. Va bene, grazie Ivo. Ivo Brugato, Roby, è tutto, ti lasciamo al tuo programma. Insomma, ci auguriamo di poter sentire presto questi ragazzi all'opera. E sicuramente, sicuramente ci terremo aggiornati. Iniziando oggi il corso, oggi la storia della radio, poi audio editing, poi ci sarà corsi di software di regia automatica, elementi di fonia, elementi di dizione, tecniche di speakeraggio, conduzione sia radiofonica che giornalistica, tecnica di animazione, talk radiofonico, elementi di marketing musicale, elementi di storia della musica e classificazione genere musicale. Questo è un po' quello che i ragazzi scopriranno e sarà un po' il corso che andrà avanti sino al 24 di marzo. 24, quindi un mesetto circa. In un mesetto, circa 5 settimane. In un mesetto trasformeremo queste normalissime persone in dei talenti radiofonici. Tra l'altro diciamo che sia Jerry che Rosy sono usciti proprio dal corso dell'anno scorso. Infatti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ciao Roby. Che stavo bene, ero solo con gli amici. È un tratto tu, se tu spiegami perché, da quando ho incontrato te tutto è diverso, non volevo più restare a pensare alla mia vita, non volevo perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita e adesso guardami. Tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare invano, mi allontano dalle stelle e adesso guardami. Più forte di te, invece. Questo è il nuovo di Gianluca Grignani. E questo è il titolo, Natura Umana, semplicemente Natura Umana, all'interno di On The Road, 17.38, buona serata, ben ritrovati sui 101.4 di CRMP Radio, eventualmente in streaming potete seguirci oltre che sentirci, crmpradio.it, là potete richiedere anche la vostra musica preferita inviando un messaggino nell'apposita finestrella, arriverà direttamente e io cercherò in tutti i modi di accontentarvi. Perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla tre giri sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni. Certo che mi fa impazzire il fatto che questa canzone non sia andata manco sul podio. Dai, è bellissima la canzone di Renga, davvero una tra le più belle in assoluto, credo, del Festival di Sanremo, però purtroppo non è stata manco tenuta in considerazione. Io ci avrei scommesso che questa canzone avrebbe quantomeno avrebbe preso il podio, se non sul primo, sul gradino più basso, al terzo, al secondo, però sul podio ce l'avrei visto questa canzone, no? Bella, molto bella. Va bene, 17:47, ancora ben ritrovati. GRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We'll be right back.

ha vinto tanti Grammy Awards, cioè adesso me li godo, sto un po' tranquillo, non violento psicologicamente la gente, subito con un altro lavoro lascio godersi in lungo e largo questo album e poi si ripresenterà, credo, anche perché lei dice che questo periodo di pausa servirà da dedicare al suo amore, quindi probabilmente fidanzamento, chissà che non ci sia altro, vedremo un po', vedremo il ritorno di Adele quando ci sarà. Noi adesso dovremmo fermarci un attimino per andare in pausa, andiamo ad sentire la redazione, sentiremo cosa è accaduto in quest'ultima ora, naturalmente poi torneremo con il flashback, un classico che riprenderemo indietro nel tempo e poi ancora tanta buona musica sino alle 19, naturalmente sarà On The Road con Robin Antoni, che vi augura naturalmente un buon inizio di settimana, visto che oggi è lunedì 20 di febbraio, e soprattutto fatemi sapere dove siete per carnevale, cosa farete, quali carri avete scelto di vedere già in nei giorni passati, perché è già iniziato ieri il carnevale, da qualche parte i carri già sono andati in giro domenica e poi martedì sarà l'ultimo giorno con i carri che sfileranno. Quale avete scelto? Fatemelo sapere tramite un SMS al 335 5637 251, eventualmente usufruendo del nostro profilo Facebook o ancora il nostro sito internet On The Road. Flashback. We'll be right back. ormai la ricordiamo così come meglio sappiamo fare, con la musica, regalandovi soprattutto i suoi grandi successi, anche se poi ufficialmente devo parlarvi di una cosa che non è bellissima, vista anche la giovane età della figlia, perché lei è sparita subito dopo il funerale ed è andata a sballarsi in un albergo. Bobby Cristina, che sarebbe la figlia diciottenne di Whitney Houston, nata dalla turbolenta relazione con il cantante Bobby Brown, è stata trovata in uno stato confusionale sotto gli effetti della droga, secondo i Daily Beast, e ora i parenti vogliono ricoverarla per cercare di curarla. D'altronde è viva per miracolo anche lei, che si era addormentata in una vasca da bagno nello stesso albergo della madre. Vedere la bara della madre è stato un colpo troppo duro, così mentre i parenti erano nel panico, la ragazza è riuscita a defilarsi e si è rifugiata in una camera d'albergo. I parenti sono terrorizzati che venga sopraffatta dagli stessi demoni che probabilmente hanno contribuito alla morte della madre, ha detto una fonte vicina alla famiglia della cantante, morta 10 giorni fa in un hotel di Beverly Hills a soli 48 anni. E così questa giovane età ci ha lasciato Whitney Houston. E anche se il portavoce della ragazza ha smentito l'incidente, aggiungendo solo che emotivamente è fragile, sta vivendo un periodo molto difficile dopo la scomparsa di Whitney, secondo l'amico di famiglia non vogliono ammettere ad alta voce che ha un problema con la droga, ma ne sono ben consapevoli, soprattutto sono sempre più preoccupati e avrebbero voluto addirittura che la ragazza venisse ricoverata in un rehab già la scorsa notte, ma alla fine hanno deciso di rimandare tutto al termine della sepoltura della cantante, perché se non sono riuscito a salvare Whitney, giurano che lo stesso non succederà con la figlia. Speriamo bene davvero che tutto questo possa possa soltanto essere un piccolo episodio, anche se poi la piccola Bobby Cristina di soli 18 anni già nel passato aveva avuto qualche precedente con stupefacenti. Vedremo, speriamo davvero di non dover commentare più notizie del genere. Siamo ormai nella seconda ora insieme, quindi sino alle 19 cominciano a scendere le prime penombre sulla città e sale la nostra musica con i successi più attuali, quelli regalatici soprattutto dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Fermati un momento, dimmelo chi sei. Unica guerriera, non ridi mai. Prova un po' ad amare e amati di più. Non è sempre uguale, lui non c'è più. È un passato da bruciare, torna ad essere di nuovo ancora tu. Io non voglio amare, solo libertà. E sono chiusa a chiave e ci resterò. So di farmi male, male non mi fa. Voglio stare sola, così mi va. Non trovare più parole, sono un muro forte che non crollerà. Respirare ad occhi chiusi, prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire e ciò che conta non c'è niente di più. Ci sei ma non ci sei, non cambio idea per davvero. Ragioni non ne hai, prova a soffrire anche tu. Perché star male? Bugiardi come la luna, noi siamo ancora qua. E sono maledetta, questo sì lo so. Forse per vendetta, o forse no. È solo una prigione, la tua falsa libertà. Apriti alla vita, io sono qua. Siamo sole temporanee, sarò vento che il tuo fuoco accenderà. Chiusi, prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire e ciò che conta non c'è.

che sta regalando bei successi uno dietro l'altro dopo Paradise, questo Charlie Brown. L'altro giorno, così, seguendo Sanremo, mi sono un attimino innervosito e spiego il perché. Dice, ma scusa, perché ti innervosisci guardando Sanremo? A parte tutte le... io credo inopportuno che si usi un programma del genere, tra l'altro su una rete madre come Mamma Rai, la rete dove tutti pagano il canone, quindi per un... per una piccola parte, credo, appartenga un po' a tutti, no? La RAI, se tu paghi il canone dovresti essere anche un piccolo azionista, consentitemi il termine. E quindi credo che la RAI, quando decide di fare un programma, dovrebbe consultare un po' come succede nelle varie aziende, no? Che ci sono i briefing, gli azionisti vengono consultati, beh, dovrebbe succedere poche parole, una cosa del genere. E allora, a parte il fatto che lo usi per andare a scaricare la tua, tutte le tue opinioni, tutte le tue cose, là, gli artisti che arrivano cominciano a farne una questione personale, vedi Celentano per esempio, lui si è scagliato contro la famiglia cristiana, Avvenire, eccetera eccetera. Ebbene, oltre a tutte queste cose, una delle cose che mi fa arrabbiare è il fatto che... ma noi in Italia ragazze belle non ne abbiamo? Belle e brave? Non ce n'è? Io credo di sì. Ce ne sono. Allora per quale motivo, mi chiedo, per quale motivo devi andare a prendere le soubrette, chiamale un po' come le co-presentatrici, perché le devi andare a prendere all'estero? Ditemi un italiano che va a lavorare all'estero in un programma del genere. Non credo ce ne siano pochissimi. Vabbè, noi perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo chiamarle? Allora mi è venuta un'idea così. Ma perché la presentatrice di Sanremo non deve essere la Miss Italia? Io vinco Miss Italia come premio, oltre il fatto di ricevere tutti quei contratti di lavoro, eccetera, eccetera. Tra questi potrebbe esserci la presentazione, o quantomeno affiancare il presentatore a Sanremo. Tanto promuovi un prodotto tuo, di casa, è una ragazza italiana e soprattutto è bella perché esce da un concorso di bellezza. Quale Miss Italia? Sa perché non ci hanno pensato mai? Costa meno? Le altre costano di più? Ah, è per quello? E come? Ma non dobbiamo risparmiare! C'è Miguel Telo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Delícia. chissà quante volte avete ballato questa in queste serate questa canzone di Miguel Telo. E allora squilla il telefono, io vado a memoria, guarda, perché credo che sia il mio carissimo amico Rambo. Vediamo se c'è azzecco. Pronto? Buonasera Rambo! Mi trovo a Palla Cerame di Santo Stefano, tetto palazzetto. Senti, ma di una cosa, Rambo. Sì, dimmi. Ma che stai facendo al palazzetto? Sto salendo. Ah, che fai? Io sono al campo sportivo, il spogliatore. Sei il? Io pulisco tutto. Tu sei un uomo, tu sei un uomo tutto da sposare. Sei un uomo da sposare, Rambo, credimi. Domani mattino. Sei da sposare. E allora, Rambo, lo sai? Che è giusto attuare. Siamo adesso più giusto che cavolo. Senti, Rambo, te lo dico sempre, parlami in italiano, la gente non capisce. Ma senti, la radio l'ascolta la gente da oltre confine. Da Roberto! Oh, in italiano, Rambo, ti prego. Allora posso parlare di nuovo, ripeto. No, va bene, ormai quello che è fatto, Rambo, però voglio dire, ti prego, in italiano. Ci devo trovare quelle teste giuste. Ah, devi trovare la donna con la testa giusta, quella che, sì. Quella che fa per te. Ma c'hai tu un'icona di donna? Già la immagini? Come la immagini? Ma ancora non si sa. Come? Sono in ricerca. Ma dico come deve essere? Alta, bionda, mora, cassa, come deve essere? Ma okay. Non è che posso toccare ossa. A te piace la donna in carne, quindi? Sì, in carne, ma non massiccia, massiccia. No, giusta. Una terza, va bene? La terza buona, la luce. Eh? Dico, una terza, va bene? Vabbè, terza, riguarda la loro terza. Avanti, voi quando fate tu ci metti la prima, la seconda, l'estate, quarta e la quinta, giusto? Zitto, non fare allusione che siamo in fascia protetta, Rambo. Sto parlando delle macchine, vabbè, tu hai capito. No, io parlo di macchine, tu fai troppe illusioni. Dai, avanti. Non sei neanche a scuola, quando parte la macchina, parte di prima. Giusto? Non alludere, Rambo, ti prego. Parliamo di quello che più ti viene facile parlare. Ma va a parlare di calcio. Di uomini. Di uomini. No, parliamo di calcio, Rambo. E allora? Sì, allora. E allora, bene, la Juve, finalmente ritorniamo a vincere 3-1 sul Catania. Sì, ci voleva. Hai visto belle spettacolo dei pulpette. Sì, no, i gol sono stati bellissimi. Poi 1-1 abbiamo 1-1 c'è stato un piccolo fortuna. Il palo di. E poi abbiamo colpito pure noi il palo la traversa in piena. Quindi abbiamo pareggiato il conto dei legni. Poi la Juve straripato 3-1. Va bene così perché la Juve doveva vincere, aveva bisogno di questa vittoria. Perché sabato c'è lo scontro diretto contro il Milan. Vabbè, c'era la botta della Coppa Italia pure. Tu dici che vinciamo? 2-1 vinciamo di nuovo. A Milano 2-1. Sì. Ai. Ma magari. Ricordati che manca Ibrahimovic. Vabbè, ma che ce ne facciamo noi? Loro hanno giocato in Coppa Italia con Ibrahimovic, abbiamo vinto, quindi. Però non era lo stesso, vedi, No. Anche se Allegri dice che non è una partita fondamentale, il tecnico rosonero e le polemiche fanno parte del gioco, lui dice a Torino ha trovato una nuova motivazione, chissà che con il gol che ha fatto sabato contro il Catania non possa svegliare quell'istinto del gol che era in lui, le punizioni. E basta con un pareggio a me. Ma infatti io credo che anche con un pareggio. L'importante non perdere, l'importante è fare punti. Bravo Rambo, l'importante è fare. Poi andare avanti, cioè guarda a fine campionato si vede. Dimmi, invece dell'Inter che mi dici? Vabbè, l'Inter è un cavolo. Non si dice. Intanto a Milano calava la temperatura, a meno tipo il cavolo. Ah sì? Sì, perché il cavolo c'è freddo, ma sì tu! C'è freddo, 0-3. C'è 0-3, la temperatura è bassissima. C'è Massimo che ti saluta dalla Svizzera. Ciao Massimo! Anche Lucia devi salutare. Lucia, ciao a tutti! Oh, saluta tutti, bravo, così si fa Rambo, bravissimo. E cosa ne pensi questo Udinese-Cagliari, Roberto? Va bene, 0-0, va bene, ormai l'Udinese non ci fa più paura, ormai se dovessimo vincere va a 9 punti, quindi va bene così, no Rambo, che dici? A Belloggio. Va benissimo così. Niente, il Milan che continua a macinare risultati positivi su risultati positivi, ha vinto contro il, ma era prevedibile la vittoria contro il Cesena. Vabbè, con Cesena è stato venuto pure zanzare per cavolo. Non mi dia con Cesena, meglio ti mettevo la maschera. Vabbè, vabbè, dai, ha vinto con l'Arsenal però pure, ha massacrato l'Arsenal 4-0. Vabbè, l'Arsenal, una volta era l'Arsenal forte, ora mezza stata. Io solo si giocava contro l'Arsenal. Roberto, ricordo che sabato incomincia il campionato, ritorna campionato di prima categoria, girone C. E tu vieni qua o no? E io qua c'è la partita, posta fortuna, posta sfortuna. Sì. Mannaggia, allora tu hai la partita domenica in casa. Qua dobbiamo giocare qua sabato perché domenica, qua siccome sabato sera c'è il carnevale, purtroppo ci mette la benzina da panza, no? E poi a domenica lo fanno tutto sfumate. Non ho capito che volevi dire, ma domenica qua non si può giocare quando c'è il carnevale perché tutti ma scusa, ma il carnevale è ovunque, non è che perché carnevale se va qualcosa era grande. Ma scusa, ma la Lega che gliene frega se i giocatori vanno a letto tardi? E noi giochiamo sabato sera, anticipiamo la partita a sabato. Ah, l'anticipata a sabato? Sì, giochiamo contro il Sinagra. Ah, perfetto, e poi sabato prossimo tu verrai qua, Cefalù. Perché dobbiamo ritornare, i tre punti ci hanno fregato, un classico di rigore resistente. Perfetto. Rambo, io devo chiudere. Voi giocate con il Sant'Agata. Va bene, io devo chiudere però, siamo in ritardo. Vabbè, non l'ho imbarrotato, sì, l'ho imbarrotato, bocca a due, guarda mia. Dai, devo chiudere, ci sentiamo dopo, ciao, Rambo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao! Ciao! Di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita che bella questa canzone, davvero molto molto bella. E allora la canzone la devo dedicare a Isabella e soprattutto la devo dedicare a Ilaria per la pazienza che ha avuto, così mi dice. La canzone bella di Noemi, sono solo parole fra l'altro dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Davvero molto molto bella sta canzone. Ha vinto questa? Non so, giuro non l'ho vista, ero troppo impegnato. Sabato di Sanremo ero troppo impegnato, fino a tarda ora non ho avuto notizie, poi figurati se l'indomani avevo voglia di andare a vedere. No, non lo so, ha vinto lei? Ma fatemelo sapere, datemi notizie se ha vinto Noemi il Festival di Sanremo. No, forse Emma l'ha vinto. Noemi è arrivata terza? Ah, grazie. Seconda? Va bene, sono informatissimo sul Festival di Sanremo, giuro, so tutto, chiedetemi, so tutto di Sanremo. Periodo, la magia del carnaval, cioè, d'altronde parlando di Brasile, samba mulata, non puoi non pensare al carnevale di Rio, e tra i più belli in assoluto, ormai saputo e risaputo. Ho salutato un po' di amici, devo salutare anche Ignazio, non ti preoccupare Ignazio che non ti dimentico, anche se stai tanto lontano dalla Sicilia, stai in America, nel Bronx, che bello sentire un amico che ti chiama dal Bronx, cioè qualche annetto fa non l'avresti mai immaginato una cosa del genere, che la gente possa ascoltarti dal Brasile, dall'America. Internet ormai ha battuto un po' tutte le frontiere e quindi è d'obbligo salutare gli amici che ci ascoltano anche da oltreoceano. Ignazio in particolar modo dagli USA. Ciao Ignazio, comparuzzo mio, no, quello è calabrese, non c'entra niente. E allora, mamma mia, un quarto d'ora oggi è volata via la giornata, dai, incredibile, quando trascorri bene il tempo vola via, è una cosa incredibile. E poi, avvicinandomi un attimino più verso casa, devo salutare un carissimo amico mio, con tutta la famiglia, perché io so che quotidianamente loro sono all'ascolto della radio, Gaetano, poi l'amico mio nonché collega Gaetano. Grazie Chiara per i messaggi, un po' tutta la famiglia, siete veramente dolcissimi. E allora, dicevo, insieme sino alle 19 voi continuate a farvi sentire. Se volete ascoltare una vostra canzone preferita, come fare? Facilissimo: o vi affacciate fuori al balcone, gridate, io vi sento, non vi preoccupare, o ancora potete inviare un messaggino tramite il nostro profilo Facebook CRM Happy Radio, o ancora potete approfittarne del nostro sito internet crmhappyradio.it. Un'altra bella canzone uscita fuori da Sanremo è questa di Mattia Bazzar, e siccome è bella è arrivata verso le ultime posizioni. Succede sempre così a Sanremo. ero intorno a vent'anni, un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa, tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì. Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato mai. Sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Primavera, festa del mondo, mentre io mi nascondo. È che non importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. L'universo si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirà per te, brucerà per te, mi ammalerà per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza. E ora sali più in alto della paura, che ci corrode, che ci tortura. E vai, ci potrà fermare più. Io brucerò per te. Che bella la canzone di Negrita. Ah, bellissima. Ultimo disco di oggi vi devo regalare. Mamma mia, ho volato via il tempo. Sai quando stai bene non vorresti mai allontanarti? Vabbè, l'amore per la musica, l'amore per i miei amici radio ascoltatori, per una volta ben ritrovati. Primo giorno della settimana, oggi è lunedì, è il 20 di febbraio. Ben ritrovati sui 101.4 per chi ancora ascolta la radio in maniera tradizionale. Invece buona giornata anche a voi che state seguendo CRMP Radio tramite internet al nostro sito crmpradio.it. Numerosi studi, sentite, hanno dimostrato come gli uomini si facciano influenzare dall'abbigliamento delle donne. In particolare, gli uomini tenderebbero a sovrastimare l'intento sessuale delle donne che vestono in abiti succinti. Ah, questa è una ricerca che ha deciso di testare questa ipotesi fuori dal laboratorio, conducendo un insolito test diretto. E c'era qualche cosa che non quadrava quando un uomo vedeva una donna in abiti succinti. E dai, è normale. Se poi la vedi magari al mare in abito, in costume, non ti provoca nessuna. Invece in quella maniera. I can't wait. Ah, I can't wait. I can't wait. Te lo do io, I can't wait. Win this game without you. Questo è il titolo della nuova canzone di David Guetta. Without you. Without you. I am lost. I am vain. I will never be the same without you. Without you. Without you. I can't rest, I can't fight. All I need is you. take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Siamo in conclusione. Noi ci ritroveremo ancora domani, naturalmente ancora dalle 17 alle 19, ancora due orette insieme. A questo punto non mi rimane altro da fare che ringraziare tutti quanti voi che siete stati all'ascolto della radio, siete rimasti là. Io devo ringraziarvi per tutto ciò, vi mando un bacione grosso grosso grosso, rimanere all'appuntamento quindi a domani, e salutare soprattutto coloro che seguiranno la replica stasera a partire da mezzanotte di On The Road. È tutto, a domani, bye!